Ho sempre guardato con curiosità, però, i motociclisti, quelli della domenica. Quelli che tengono la moto in garage per tutta la settimana. La domenica mattina si infilano le tute di pelle, caricano la fidanzata su 5 cm quadrati di sellino e via verso il lago. Quella è una piccola tribù. Una tribù in cui si leggono le stesse riviste, in cui si usano termini sconosciuti, in cui ci si saluta quando ci si incrocia per la strada. Ecco, ammetto, tutti questi rituali li ho sempre trovati un po' ridicoli. Eppure ce ne fu uno che mi fece riflettere, mi piacque. Qualche mese dopo aver comprato la Vespa, quindi anni fa, e il casco ovviamente, venne a pranzo a casa dei miei un'amica di mia mamma, Giorgia si chiamava. Giorgia era l'unica tra le sue amiche che non si era mai sposata. Era sempre sorridente, piena di cose da raccontare. Quel giorno arrivò a casa in moto con il suo nuovo fidanzato. Era un ragazzo giovane, molto più giovane di lei. E appena se ne andarono via in famiglia scoppiò subito una bagarre su quanto fosse opportuno che una donna di 50 anni frequentasse uno di 30. Lui era un motociclista, infatti arrivarono bardati come per una corsa di MotoGP. Mi stava pure simpatico, prima che se ne andassero gli mostrai la mia Vespa nuova, tutto orgoglioso. Lui le girò un po' intorno, l'accese per sentire il motore, poi mi guardò e mi chiese se l'avevo già segnata. Io non capii cosa volesse dire, quindi lo guardai un po' interdetto. Lui allora tirò fuori dalla tasca un mazzo di chiavi. Si inginocchiò vicino alla ruota anteriore e fece una riga all'interno del parafango, dicendomi: il primo graffio è meglio che lo fai tu, così non aspetti che accada per sbaglio o per colpa di qualcun altro. Ecco, quella cosa lì, quella cosa di essere l'autore consapevole del primo segno, anche se invisibile, sulla propria moto, mi piacque molto. E pensai che in futuro mi avrebbe protetto. Purtroppo non fu così, perché per proteggersi dalla propria imbecillità non c'è santo né graffio che tenga. La volta in cui caddi, infatti, giravo distratto per le strade di Novara, in cerca di un negozio in cui comprare un regalo. E quando lo vidi, feci inversione per tornare indietro. E boom! Sentii un colpo sotto la sella, all'altezza della ruota posteriore. Il colpo mi spostò e mi fece girare. Tutta la Vespa si piegò sulla sinistra e in quell'attimo prima di cadere, io ebbi tutto il tempo per realizzare cosa avevo combinato. Avevo fatto inversione senza guardare, la macchina dietro mi era venuta addosso e stavo per finire a terra. Ero un cretino e avevo pure torto. Quando finalmente toccai terra tra il fischio delle gomme e lo sferragliare della Vespa, sentii nitido il mio braccio che picchiava sull'asfalto e faceva croc.